Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, benvenute a questa nostra nuova trasmissione. Oggi qui in studio ci sono io, Caterina, e con me c'è Pina. Abbiamo preparato per voi una scaletta niente male, infatti vi parleremo di elezioni, delle elezioni politiche. Vi ricordiamo che è ufficialmente cominciata la campagna elettorale. E poi vi parleremo della Cassazione e ne parleremo sottoponendovi un test, come tutte le trasmissioni che si rispettano. Ma non voglio anticiparvi niente altro e allora ascoltiamo subito una bellissima canzone che aprirà questa nostra trasmissione. L'abbiamo scelta perché il suo titolo era lo pseudonimo di una donna che ha scritto un racconto delizioso che forse qualcuna di voi già conosce. Si tratta del libro Un'americana a Parigi, scritta appunto da Eleanor Rigby. Ascoltiamo quindi insieme la stupenda voce di Aretha Franklin con il brano Eleanor Rigby. Berlusconi for President, un presidente amico, imprenditore, innovatore, operaio e a secondo dei casi, per aiutare chi è rimasto indietro, per costruire un'Italia migliore, per pensioni più dignitose, eccetera. Di tutto questo è capace una sola persona. Cosa aspettiamo allora? Votiamolo. Chi di voi da piccolo ha letto le Sacre Scritture? Ricordate che da qualche parte c'era scritto che prima o poi sarebbe arrivato l'Anticristo? Eccolo il nuovo Salvatore, finalmente è arrivato e si è rivelato. Ecco colui che risolverà i mali, oltre che dell'Italia, forse addirittura del mondo. Ecco colui che farà felici tutti gli italiani. Non ci meraviglieremmo affatto se nel suo delirio di onnipotenza i suoi piani fossero proprio questi, oltre che, naturalmente, continuare indisturbato ad accrescere il proprio patrimonio personale. Che importa poi se in maniera lecita o illecita? Quel che conta è che lui possa dimostrare di essere il più intelligente, il più forte, il più bravo. Peccato che non possa dimostrare di essere il più bello, nonostante le fotografie dei cartelloni lo ritraggano sempre più giovane. Si vede che è anche un diavolo di presidente. Siamo consci che nel corso degli anni, anzi dei secoli, c'è sempre stato il santone di turno. E a noi, generazione del 2000, ci è toccato lui. Lui, questo mistificatore, che fino all'altro ieri ha costruito le sue fortune con i vari Craxi, Andreotti e compagnia cantante, e che si permette di dare lezioni a destra e a manca, ma soprattutto vuol farci credere di essere puro oltre che capace. Come se non sapessimo che nell'Italia del malaffare, dove lui pare ci abbia sguazzato a lungo, ma tanto si sa che predicare bene è facile, così come pure razzolare male. Non sono i capaci che vanno avanti, ma coloro che meglio riescono ad intrecciare la politica con il malaffare. Quindi, più faccendieri si è e più avanti si va. Tutto questo a qualsiasi livello. Come se non sapessimo che la politica oggi, così come ieri, anche se in maniera più incisiva e plateale, è fatta dalle imprese. Infatti, la new economy, la globalizzazione, sono entrate prepotentemente nella nostra vita quotidiana, stravolgendo completamente le regole sociali. Il profitto è diventato il fulcro del mondo e, nonostante si sia moltiplicato, è aumentata la disoccupazione, è aumentato il ricorso al lavoro straordinario, il lavoro è sempre più atipico, al lavoratore è richiesto una maggiore flessibilità delle mansioni, diminuiscono i diritti e anche i salari. Tutto questo contribuisce a rompere la centralità del ruolo del lavoratore, il quale, sempre più disorientato, non ha più una vita privata, perché l'esistenza è subordinata e finalizzata ai ritmi lavorativi. Lavoro flessibile, lavoro nero, lavoro interinale, lavoro in affitto, lavoro fisso, insomma lavoro. Tante più ore si lavora, tanto più si produce, tanto meno si guadagna, tanto più si arricchiscono le imprese, comprese quelle appartenenti al signor Berlusconi. È facile essere amico e innovatore quando è con il sudore altrui che ci si arricchisce. Suggeriamo comunque al presidente di reinvestire una parte dei suoi profitti in aumenti per gli stipendi dei suoi dipendenti. E chissà che il suo prossimo manifesto non possa essere del seguente tenore: un presidente meno ricco e il lavoratore non cola a picco. Negli anni 70 il 60% degli utili produttivi veniva ridistribuito al lavoro, alias meno disoccupazione e stipendi più alti. Oggi la tendenza è completamente capovolta. Il 60% degli utili rimane alle rendite e quindi ridistribuito al monte capitale e solo il 40% al lavoro, alias imprese più ricche e lavoratori sempre più poveri. È facile oggi interpretare i bisogni degli italiani, almeno quelli, la maggior parte per la verità, che negli ultimi 20 anni si sono bevuti il cervello. Purtroppo i messaggi che sono passati, il bombardamento di cui siamo stati oggetti, hanno sortito il loro effetto e artefici maggiori di questa letargia generale sono proprio i mass media. Cosa vogliono oggi gli italiani? Lavorare di più, naturalmente, correre chiaramente, stressarsi anche la domenica, avere uffici aperti 7 giorni su 7, fare la spesa anche a mezzanotte, e questo non perché ci si vada a divertire, ma perché non bisogna mai fermarsi. Chi si ferma è perduto. Il lavoro sempre più precario non è più un diritto, anzi, quanto più gli altri sono precari, tanto più bisogna essere grati alla vita che ci ha fatto trovare un lavoro fisso. Crediamo che non sia tanto lontano il giorno in cui ogni mattina, quando ci alzeremo, per la verità sempre più all'alba, il nostro primo pensiero sarà rivolto a Dio e con una preghiera lo ringrazieremo di averci dato il pane quotidiano. Getting the spirit in the dark. I'm getting the spirit in the dark. People moving, falling with grooving. Just getting the spirit in the dark. Quella che state ascoltando è sempre Aretha Franklin con il brano Spirit in the Dark. Lo Stato oggi non ha più il suo ruolo regolatore, ma addirittura è diventato veicolatore del valore dell'impresa. E cosa fa? Privatizza la scuola, la sanità, eccetera. creando in questo modo un divario sempre più forte tra ricchi e poveri, generando attraverso il federalismo la competizione addirittura all'interno dello Stato. I danni prodotti dal cambiamento della nostra società negli ultimi anni, i cui effetti devastanti sono sotto gli occhi di tutti, non possono non portarci a delle riflessioni. Che cos'è la mucca pazza se non il prodotto di ritmi frenetici imposti dalla globalizzazione, dalla new economy? Che cosa sono i cibi transgenici se non la manipolazione della natura che si ribella e per il momento fa impazzire la mucca? Ci rendiamo conto che la televisione, da mezzo di comunicazione, è diventato mezzo di alienazione, che abbiamo perso il gusto di ritrovarci intorno ad una tavola per il solo piacere di stare insieme e di comunicare, che il computer dovrebbe essere un mezzo per migliorare la qualità della vita, invece è diventato un mezzo per isolarsi, rimbambirsi o peggio ancora per fare porcate. Non è possibile che non ci chiediamo tutto questo dove ci porterà. È impensabile che non ci domandiamo il perché il 40% circa della popolazione è affetta da disturbi depressivi, da stress da lavoro o da stress dovuti a ritmi di vita sempre più accelerati. Insomma, aumentano le patologie riconducibili ad una vera e propria manifestazione di disagio, non percepibile ma palpabile. Ora, se i bambini, che sono il prodotto della famiglia e della società che li circonda, riescono con comportamenti disturbati ad esprimere a loro modo l'inadeguatezza del contesto in cui si trovano ad agire, è altrettanto vero che gli adulti, anche se soggetti pensanti e parlanti, che si sentono stritolati in questo sistema, esprimono il loro disagio attraverso la depressione, l'alcol, le droghe e quant'altro sia in grado di estraniarli dalla realtà in cui, pur non riconoscendosi, ne sono parte integrante. Possiamo non essere grati a colui che attraverso i suoi slogan pubblicitari ha promesso che risolverà tutti i problemi dell'Italia. Ed è a lui che chiediamo: ma l'Italia che ha in mente è la stessa Italia che hanno in mente gli italiani? Non crede che dopo il bombardamento di cui sono stati oggetti gli italiani, e ci riferiamo al cartellone pubblicitario, un presidente operaio, giustamente tutti gli operai pretenderanno di andare in fabbrica, quantomeno con l'elicottero, meglio ancora con il jet privato, vestiti di tutto punto con maglioni di cashmere, camicie e cravatte di seta. Tutti gli operai si daranno da fare per meglio imitare il loro idolo presidente. Del resto basta poco: cervello fino, desiderio di sopraffazione, una buona dose di mancanza di scrupoli, passare sul cadavere delle persone, fregarsene del prossimo, essere buon arrampicatore sociale ed il gioco è fatto. Avremo tanti Berlusconi pronti a sfruttare il prossimo, sottopagare i lavoratori, costringerli a lavorare tanto e ad aumentare il proprio capitale e conseguentemente il proprio potere. Questo bravo signore, oltre ad averci portato via i sogni, la fantasia e quant'altro, costringendoci ad adeguarci ai ritmi frenetici della vita moderna, sta tentando di portarci via pure la cultura, che è alla base della civiltà dei popoli. La storia, il latino, il greco, la filosofia servono a formare i giovani di domani, quelli provvisti di un'anima e dei sentimenti. Quegli altri andassero pure ad ingrossare l'esercito dei berlusconini. Ma non possiamo non chiederci, ma quale futuro ci potrà mai essere per quei giovani che sposeranno la scuola con le tre I di Berlusconi, impresa, internet, inglese? A noi sembra che queste tre I riconducano ad un solo comune denominatore, che è diventato il credo della maggior parte delle persone, il Dio Danaro. Questo Dio per il quale rincorriamo le giornate, le notti, ma per il quale ogni giorno ed ogni notte sembra uguale all'altro. Che tristezza. D'altro canto c'è da dire che nello schieramento opposto hanno candidato un personaggio degno compare di Berlusconi. Anche lui soffre dello stesso delirio di onnipotenza. Infatti da lui dipende il nostro futuro. Forse è per questo che siamo molto preoccupate. Beh, c'è poco da stare allegre. Se il futuro è rappresentato da questi due signori, sarà bene che incominciamo a immaginare in quale altro paese ci piacerebbe vivere. In un tipo di società così strutturata non c'è spazio per le donne e ancor di più per le lesbiche. I tentativi di relegarle a mogli, madri, casalinghe e tuttofare non hanno mai subito una battuta d'arresto. Sta a noi decidere se e quando appropriarci degli spazi che ci hanno sempre scippati. Sta a noi partire alla riscossa. Sta a noi sognare e realizzare un tipo di società tutto al femminile e, perché no, al lesbichile. Lesbiche e donne in grado di cambiare il mondo. Un mondo senza odio, senza sopraffazione, senza guerre. Un mondo in cui non viga più la legge del più forte. Un mondo fatto di sogni, fantasia, poesia. Un mondo in cui la parola amore sia usata ed applicata per quello che è il suo vero significato. Un mondo in cui finalmente non ci siano più né vinti né vincitori. E per concludere ho scelto di farvi ascoltare una canzone dal titolo significativo, se pensiamo al soggetto di questo mio intervento. Si tratta di Stupide parole delle Ventra, un gruppo rock italiano, il quale, ricordiamo, si è esibito nella tre giorni da noi organizzati in occasione del World Pride di Roma, When Night's Falling. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa sugli 87 e 900 MHz. Ci potete contattare tutti i mercoledì nella nostra sede all'interno della Casa Internazionale delle Donne di via San Francesco di Sales 1B a partire dalle ore 21. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono, di segreteria e fax, che è lo 06 6864 201, che potrete utilizzare per tutte le comunicazioni, le iniziative e le idee che vorrete inviarci. Vi ricordiamo inoltre che abbiamo anche un indirizzo di posta elettronica, clrbp@hotmail.com. Aspettiamo vostre notizie. Eccoci al nostro test. Volete sapere perché abbiamo deciso di idearlo? È semplice. Per smentire le voci false e tendenziose che non ci credono integrate con ciò che ci circonda. Vorrei sapere chi ha detto in giro che non ci piace assolutamente omologarci e che ci teniamo ad uscire dal coro. Ma che idea bislacca! Perché mai dovremmo autoescluderci da un contesto così, ecco, perché dovremmo? E appunto per confermare questo nostro bisogno e questa nostra volontà di esserci, non potevamo non allinearci con la migliore stampa nazionale dedicata al genere femminile. D'altro canto siamo convinte che anche noi donne, se fosse rimasto aperto e se non fosse stato inghiottito dalle leggi di mercato, avrebbe sicuramente sottoposto le sue lettrici ad un test. Tutti i giornali e tutte le riviste prima o poi ci cascano. E noi chi siamo per poterci escluderle da un'attività tanto allettante, tanto veritiera, tanto basata su fondamenti scientifici e tanto gratificante come quella che ti offre la possibilità di essere inserita in un indistinto generale che però ti accomuna, male che ti vada, con un altro 30% che ha dato le tue stesse risposte. Poi diciamola tutta, in un periodo come questo dove parlare di test è quasi un'attività giornaliera, vedi per esempio test per la mucca pazza, testi per vedere se il pesce che mangiamo è o non è alterato, test per scoprire se i soldati sono all'uranio, test per vedere se il pollame che finisce sulla nostra tavola mangia transgenico o no. Beh, in un periodo come questo, dicevamo, fa quasi piacere essere in riga con il resto del mondo. Ecco allora, abbiamo elaborato un nostro test, nuovo, di zecca. Mentre ci accingevamo nella sua elaborazione, però, abbiamo incontrato un piccolo problemino. A nostra memoria ci risultava fossero stati fatti dei test per vedere se sei gelosa o comprendi i suoi bisogni. Sei intraprendente o aspetti che altri decidano per te? Sei estroversa o sei timida? Sei pratica o sei romantica? Sei una donna in carriera o sei l'angelo del focolare? Sei cacciatrice o sei preda? Hai fantasie sessuali o lui ti basta? Insomma, Quasi tutti questi test erano sì rivolti alle donne, ma prevedevano implicitamente la presenza di una figura maschile. Ora, questo per noi non era un problemino proprio da poco, considerando che, come ormai saprete, essendo noi lesbiche, come dire, abbiamo qualche impedimento rispetto all'implicita presenza maschile nelle nostre vite. Inoltre, consce del fatto che questa trasmissione non è seguita soltanto da lesbiche, ci è parso giusto raggiungere un compromesso equo. Inventiamo un test al quale possano rispondere tutte le donne. Donne in quanto tali e che non riguardi esplicitamente il rapporto di coppia. Bene. Generalmente tutti i test vantano un collegamento alla vita reale, per cui i loro fautori dichiarano che l'elaborazione delle domande deriva dall'osservazione dei comportamenti e dall'osservazione della realtà. Bene. Anche noi ci siamo avvalsi di avvenimenti assolutamente reali. Bene. Il nostro test prevede 6 domande alle quali potrete dare 3 possibili risposte, si sa le classiche, A, B o C. Spero abbiate preso carta e penna. Vi aspetto un attimo, andate a prenderle. Bene, iniziamo dandovi il titolo. Sei una donna al passo con i tempi o sei solo una nostalgica provocatrice? Ed ecco le domande, mi raccomando, prendete nota delle risposte. Prima domanda. Cammini per strada e vedi qualcuno che mostra un pene finto. Come reagisci? A. Ti volti e ringrazi lo sconosciuto per le attenzioni che ti ha rivolto. B. Non ti volti, ma in cuor tuo sei gratificata. C. Ti arrabbi e vorresti denunciarlo. Seconda domanda. Sei su un autobus affollato e ti senti tastare il sedere. Cosa fai? A. Pensi che dovrebbero incrementare le corse di quella linea tranviaria? B. Pensi di aver ricevuto una gentilezza in quella situazione così disagiata per tutti. C. Ti arrabbi e vorresti denunciarlo. Terza domanda. Sei in una cabina telefonica in pieno centro e in quella a fianco alla tua uno sconosciuto mostra il suo pene fingendo di urinare. Cosa dici? A. Affermi che qualcuno dovrebbe prevedere l'installazione di altri bagni pubblici in pieno centro. B. Chiedi scusa per aver usato quella cabina e per aver notato involontariamente il suo pene. C. Ti arrabbi e vorresti denunciarlo. Quarta domanda. Quel tuo amico che ti fa la corte, tuo malgrado, riesce a baciarti. Come reagisci? A. Pensi di essere fortunata perché evidentemente ti ama come dice e vuole davvero sposarti. B. Pensi che con i tempi che corrono non puoi permetterti di perdere un'occasione del genere. C. Ti arrabbi e vorresti denunciarlo. Quinta domanda. Un collega vorrebbe baciarti. Ti volti e il suo bacio finisce sulla guancia. Cosa pensi? A. Ritieni di avergli dimostrato di non essere una donna dai facili costumi. B. Pensi che in questo modo potrà apprezzarti ancora di più per la tua pudicizia. C. ti arrabbi e vorresti denunciarlo. Sesta ed ultima domanda. Vieni caricata di peso in una macchina da uno sconosciuto. Cosa pensi? A. Pensi che è finalmente arrivato il tuo principe che ti condurrà nel suo castello dorato. B. Resti assolutamente tranquilla visto che nulla potrà accaderti. Indossi i jeans. C. Ti arrabbi e vorresti denunciarlo. Allora, veniamo ai risultati. Se avete scelto una maggioranza di risposte appartenenti al gruppo delle A, siete una donna al passo con i tempi. Se avete invece scelto una maggioranza di risposte appartenenti al gruppo delle B, siete una donna che non ha perso del tutto la coscienza di se stessa, siete solo un po' addormentate. Se avete scelto una maggioranza di risposte appartenenti al gruppo delle C, siete una donna che ancora riconosce le ingiustizie dettate dal sessismo, in grado di riconoscere i soprusi e le violenze, ma decisamente da considerarsi una nostalgica provocatrice. No, calma, non siamo impazzite. Ricordate? Avevamo affermato che le domande di questo nostro test erano state formulate in base alla realtà e a conferma di questo vi proponiamo le sentenze della Cassazione che nel corso di questi ultimi anni sono state emanate. Pronte? Ora ascoltate bene, con molta attenzione, perché non c'è niente da ridere. Prima sentenza. Mostrare un pene finto alle passanti non è reato, perché non offende il comune senso del pudore. Seconda sentenza. Dare una pacca sul sedere non è reato se il gesto è repentino. Terza sentenza. Mostrare il pene vero non è reato se accade mentre si sta espletando un bisogno fisiologico, altrimenti è ingiuria. Quarta sentenza. Bacio non corrisposto. Non è reato l'uomo che bacia una donna che ama e che vorrebbe sposare, anche se non corrisposto. Non può essere accusato di molestie. Quinta sentenza. Bacio sulla guancia. Non è reato se indirizzato sulla guancia. Diventa violenza sessuale se in realtà era diretto sulle labbra e la donna ha girato la testa. Sesta sentenza. Violentare una donna con gli jeans non è violenza, perché l'induento non consente la consumazione del reato. E non è uno scherzo. Per riprenderci un po', vi lascio in compagnia del brano musicale You Follow Me Down degli Scancanensis. Yeah.